Ladies and gentlemen, start now on a clandestino cheat. Il pavimento, che confusione, maledizione, che giorno è, devo aver perso il conto, io qui tu là, a guardare il soffitto, come si può, come si fa, Dio mio però, come sono ridotto, io non lo so, che ho fatto mai, ho paura sai, paura sai, paura. Ce la farò meglio a te, lo faccio sai, lo faccio sai. Vedrai, vedrai, ma tu che vuoi, dicendo è noi, che importa a noi, io no, non parlo più, tu resta a dormire tu, io sto affondando giù da solo. Buonasera E ben ritrovati a questa nona puntata di Clandestino Cid 22:17 su Fuori Onda Radio all'occupata P2 Cubo 40 naturalmente. Siamo qui questa sera con un po' di... non lo so, tutti che si vogliono dissociare, ma le statistiche parlano chiaro, quindi la canzone era attinente, se non si è capito. Comunque alla fine faremo una parafrasi. Vado subito a presentare un nostro carissimo amico che è venuto a trovarci per la seconda volta. Passo il microfono. Allora, buonasera a tutti da Clandestino Cid. L'altra volta ho fatto una cazzata, ho detto Sid come il ragazzo, insomma, il personaggio dell'era glaciale, si chiama Cid, ragazzi. Allora, niente, questa sera non so di cosa si parlerà, gli argomenti principali, le elezioni le lasciamo a put, tra virgolette, in senso che non ce ne frega una mazza, piuttosto abbiamo argomenti molto più importanti. Io direi che questa radio è molto cool, non è cool, diciamo, come il fondoschiena, ma cool come in inglese. Allora, ragazzi, passo la palla un attimo a Peppone, io giusto al volo. Ringraziamo la Stube Paulaner già al volo per il concerto del 27. Io già lo volevo anticipare, appuntamento. Allora, 27 Stube Paulaner Rock Blues, io l'ho anticipato al volo, giusto perché ci tengo molto che ci siamo tutti quanti. Passo la palla a Peppone, prego. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Volevo iniziare dissociandomi con la scelta di aprire la trasmissione di oggi con Claudio Baglioni. Vabbè, ecco, anche, c'è anche il blues che si dissocia, quindi non lo so, Ciccio. Cosa hai da dire tu a discolpo? Non voglio cadere nei luoghi comuni, comunque va bene. Raga, Claudio Baglioni ci stava tutto, no? Ma anche no, qualcuno che arriva con il suo blues allucinante. Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori di Clandestino Cid. Qui vi parla un bluesman d'eccezione. Sono Lorenzo Blues, direttamente dalla trasmissione Morte e Sepolta, ma che tra tre giorni risorgerà, quella dei Mozilla Bros. E sono anche uno di quelli che suonerà mercoledì sera alla Paulaner, grazie a Marco che ha già fatto una specie di introduzione. Vi invito tutti quanti, soprattutto mi dissocio, come direbbe Peppone, l'ho già postato in bacheca di Clandestino, mi dissocio chiaramente da quello che è stato, cioè avete invitato il blues, avete detto voi, poi io chiaramente accolgo con entusiasmo questi complimenti, ma non si può accogliere il blues con Baglioni, dai, ci vuole qualcosa di blues, vero Ciccio? Dici che mi hai preparato una canzone, vedremo, sentiremo più che altro che vedremo. Beh, è dato che la lanci così, questa canzone è per iniziare. Vai con Leila. In love with you. leggevo, l'Italia è un po' come Rihanna, che si fa massacrare di botte da Chris Brown e poi ci ritorna insieme. Mattia, bevi l'acqua, ragazzo. Comunque, Bersani avanti d'un soffio, brum di grillo, brum brum di grillo. Berlusconi e Lega al 30%. Da una parte siete andati a votare, sì? Adesso siete in pace? Anzi, diciamo in un certo senso le vostre speranze, perché alla fine la votazione è una speranza, cioè ripongo le mie speranze in una croce. E alla fine, no, non... La croce di Gesù? La croce... No, un X, dai, diciamo. Vorrei parlare. Ah, ok. Ma alla fine, no, non capisco perché c'è tutta questa delusione da parte comunque di chi ha votato. Non immaginavo questo, immaginavo quello, adesso si va di nuovo alle votazioni. Ma da una parte forse cioè, è arrivata... un soffio d'aria pura, la coscienza, da parte di chi sa, domenica e lunedì si è fatto carico della democrazia e adesso, non lo so, si rende conto che è tutta una mattanza. Marco, tu? No, che c'è da dire su queste cose? Diciamo che le elezioni sono quasi finite. In pratica sulla carta ha vinto Bersani, ma in realtà è successo un frappè di pesce spada, perché come al solito in Italia, perché diciamo Bersani ha vinto alla Camera, c'ha cioè il premio di maggioranza, tutte quelle cose belle. Può essere che ancora non ha vinto, dato che mancano un po' di sezioni, quindi se Berlusconi recupera lo 0,9 vince lui. Comunque al Senato, con la grandissima legge che abbiamo in Italia, Bersani c'ha più... Non è il Porcellum questo è un'altra cosa. E c'ha... In pratica ha preso più voti Bersani, però Berlusconi c'ha più senatori, quindi vabbè, lasciamo stare. Comunque il vero scandalo di questa elezione lo devo dire in radio, perché è uno scandalo, non è possibile in un paese civile come l'Italia che succedano queste cose. Davvero, ci lo voglio dire, tu non me lo vuoi far dire, però lo dico. Non è possibile che il povero Oscar Giannino non ha nemmeno un deputato, basta. Io contro questa ingiustizia dobbiamo lottare di clandestino. Il povero Giannino che... Non ha nulla, poverino, non ha le lauree, non è andato allo Zecchino d'Oro, non ha nemmeno il deputato ora. Ti sembra giusto, te ciccio? Secondo me la colpa non è della democrazia, non è dello Stato civile, della democrazia cristiana anche, ma è colpa della giacca di Giannino. Cioè, poteva cambiare vestito, anche look, beh, un po'. Sì, ma uno con quel baffo, dove lo trovi al giorno d'oggi, dai? Cioè, è un baffo fenomenale, Giannino, nemmeno il 2%, dai, 1,1, non si può sentire. In nessuna nazione del mondo ci sono queste cose. Una persona di rispetto come Giannino, bah, lasciamo stare, dai. Marco, tu come la vedi? Guarda, io, a parte che Giannino ha un baffo spettacolare, secondo me molto blues, io, come no, no, aspetta, c'è una polemica in corso sul baffo di Giannino? No, dimmi, assolutamente, vai. Diciamo che più che altro è un baffo molto psichedelico, psico punk post rock anni 27. 19 e 27. No, aspetta, 15-18, quella è la prima guerra, scusa. Quella era il giro della ruota di Bari. 77 le gambe delle donne, giusto per dare i numeri, se posso. Io in realtà in queste elezioni politiche, allora, il mio candidato ideale è Cettola Qualunque. Bravo! Il motto per tutti sarebbe più pelo per tutti, ovvero più capelli per tutti. Cioè, Francesco, detto in modo... Passo la palla a Pepe, chiedo scusa. No, parlando di capelli, giusto che parli io, no? Mi sembra... Sono la persona... Aspetta, l'applauso. Aspettate che parte l'applauso. Allora, stavo dicendo... Cettola Qualunque, ricordiamo che non ha inventato lui queste cose, ma in realtà le ha prese da qualcuno, da Freud, come ne parlavamo stamattina. La laurea di un nostro amico, di Luca, che salutiamo, è eccezionale veramente. E in pratica Freud diceva le stesse cose che diceva Cettola Qualunque, però siccome lo diceva Freud che scriveva libri va bene, invece Cettola Qualunque è un politico di rispetto, viene preso in poco capito, viene non viene considerato. Allora, a questo punto potrei dire che i libri di filosofia di Freud parlano di pilastri di Pilu. Francesco, dimmi tu. Ma sostanzialmente penso che succede sempre così, no? Alla fine la filosofia zen, come torna sempre lì. Sì, vabbè, raga, è ispirazione, anche questa ragazza ci parla di tanto. Comunque, no, ma il fatto rimane, ti senti italiano, Marco? Anche per quanto riguarda la vicenda della filosofia innestata nella politica e il baffo di Giannino? Guarda, assolutamente, e direi che mi sento più a questo punto... quasi Senegal o quasi Zimbabwe, ma non italiano a questo punto, anche perché non sono andato a votare, io lo dico. Allora, votare è un dovere, si dice, però con quello che c'è oggi non so quanto dovere sia questo, devo dire la verità, non so come la vedete voi, ragazzacci, però purtroppo oggi come oggi la politica, io vedo, allora, Grillo che è un comico che si è buttato nella politica, e va bene, il Berlusca che ecco, con un bunga bunga bust up, diciamo, uno che va con le minorenni, non so che per quanto possono essere attendibili queste notizie, comunque uno con questo lifting non so quanto lo potrei mandare al governo. Bersani non lo conosco di vista, magari è un bravo ragazzo, non so, gli altri... Bersani, ma che cazzo dici? Per l'appunto, quindi a questo punto direi, io, soluzione mia, tutti in piazza. Non so se come la vedete voi. Io direi tutti al mare, Peppe, no? Ma sì, andiamo al mare, al montagna, al fiume, dove vogliamo. Comunque, complimenti a Bersani che è riuscito a perdere delle elezioni che praticamente... aveva già vinto, solo lui poteva perdere queste lezioni. E parlando di sentirsi o non sentirsi italiani, una citazione del genere non può che far partire un pezzo di questo pezzo. Non serve nemmeno che lo presento. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi, presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi, presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Presidente, se arrivo all'imprudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi, presidente, ma ho in mente il fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione. Persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente, dovete convenire che i limiti che abbiamo ce li dobbiamo dire. Ma a parte il disfattismo, noi siamo quel che siamo e abbiamo anche un passato che non dimentichiamo. Mi scusi Presidente, ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, mi sbatto sulla faccia, cos'è il Rinascimento? Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi Presidente, ormai ne ho dette tante, c'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi Presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire o forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. Per fortuna purtroppo lo sono, lo siamo, lo siamo. Vabbè, ringraziamo alla fine. Beh, io sono del Mississippi comunque, sappiate. No, il fatto è sì, di essere italiano, quindi per i prossimi 5 anni dovrò vantarmi il cielo, il mare, la terra, le montagne e il blues. Alla fine, ragazzi, sì, bellissime, bellissimi paesaggi, bellissime opere d'arte, bellissimo sesso, come ci arriva dal blues, ma alla fine questo non fa mangiare nessuno, a parte l'ultima, che magari ti può dare grandissimo piacere, però raga, basta, ne abbiamo le palle piene, allora, mare bello, l'aria più pulita, ce l'abbiamo, ma non fa mangiare nessuno, viviamo in situazioni catastrofiche, proprio non abbiamo delle strade, raga, assistenza sanitaria che va sotto zero, servizio pubblico che non esiste, che facciamo? Andiamo a votare, votiamo, ok, e votiamo. Per almeno mantenere sempre viva la coscienza, la vera coscienza, quella che incarna Clandestino Cid e tutti i nostri ospiti questa sera, quella di essere antifascisti, antifascisti fino alla fine. E con la scusa salutiamo il nostro indignato speciale da Roma, Tarlo, che proprio oggi pomeriggio ci ricordava che a Roma c'è stato un bellissimo corteo ricordando Valerio Verbano. Verbano che è stato ucciso in un delitto nel 68, recentemente si è riaperto il caso. Praticamente si è scoperto che sono stati dei militanti di estrema destra a commettere l'omicidio. Il corteo si è tenuto a Roma e si è voluto ricordare anche l'omicidio di Dax, che ormai sono passati da già 10 anni. Quindi viva la democrazia, Marco, ma Casa Pound c'era alle elezioni e non sappiamo nemmeno, Peppe poi ci dirà i dati precisi, quanto voti e voticelli ha preso. Direi, allora, a parte il fatto, giusto una citazione, parlando di blues, direi una delle canzoni più importanti è Neo Blues, dipinto di blues. A parte quello, dicevamo di questa notizia di Roma, allora, questo ragazzo, il 68, che si chiama Valerio Verbano, praticamente, a quanto ho capito, è stato, si discute a Roma in tutta Italia, la figura del 18enne militante dell'area dell'autonomia, che è stato brutalmente assassinato, praticamente... a 33 anni, a soli 33 anni, direi gli anni di Gesù. A questo punto non voglio essere poco religioso, molto religioso, però insomma la madre Carla che ricorda questa storia successa un po' di anni fa a Roma, direi. Queste purtroppo sono quelle storie che succedono nelle varie manifestazioni collettive, politiche, religiose, quello che vogliamo, e ne fa, diciamo, come posso dire, in senso, il purtroppo nella massa una persona muore, viene brutalmente assassinato, e in realtà ne dimentichiamo un po' di questa cosa, non è, cioè, un ragazzo morto, comunque non è che, diciamo, stiamo a pettinare le pantecane, stiamo a parlare di un ragazzo che è morto in una manifestazione, più o meno, grosso modo. Ok, allora, quello che volevo dirvi comunque è, allora, a prescindere da questi discorsi politici, io volevo passare un attimo un po' in un discorso un bel po' diverso, passando la palla un attimo a Peppe, se posso, ovviamente. Prego. Vabbè, sull'antifascismo ci sarebbe qui a parlare di per ore e ore, possiamo parlare addirittura una settimana di fila. Ricordiamo che Clandestino CID è una trasmissione che basa le sue fondamenta sull'antifascismo, sull'antirazzismo, su queste manifestazioni di odio verso il diverso che non fanno mai bene in una società multietnica come la nostra, in cui bisogna volersi bene, pure che uno è diverso. Sempre vediamoci bene. E per parlare di questa, diciamo, di questo argomento, mandiamo un pezzo dei 99 post. Siamo solo esseri umani a cui è molto cara la vita. Ci sono in giro dei fascisti che sono pronti a farla finita con noi e con chiunque non si adatti al loro barbaro stile di vita. Ma noi non ci adattiamo, non indietreggiamo, combattiamo per salvarci la vita. E voi? Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, non ti nascondere se sei. Antifa, siamo un esercito ribelle. Antifa, che combatte per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro razzismo e prepotenza. Antifa, leva il tanto se non sei antifa. Antifa. Non siamo noi che per la strada andiamo in giro sempre in gruppo ed armati. Guagliù. Non siamo noi che ci proteggono la polizia e i servizi segreti. E a cui. Non siamo noi che promuoviamo l'odio e poi vendiamo falsi rimedi. No, noi siamo qui che resistiamo. Noi non abbocchiamo e non vogliamo gli indecisi tra i piedi. Non è questione battere, ma se sapete difendere, tanto non gioca a damma, non c'è ruota a vendere. Non è questione battere, ma se sapete difendere, tanto non gioca a damma, non c'è ruota a vendere. Se sei antifa, siamo un esercito ribelle. Antifa, che combatte per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro razzismo e prepotenza. Antifa, leva il tamizio se non sei antifa. Siamo i gay, le lesbiche, siamo i nordafricani, siamo i ebrei, i musulmani, siamo vestiti strani, siamo i spanici e i romeni. Abbiamo scelto se ci siamo nati, siamo tutti diversi e severi. si ritorna in studio, clandestino Cid. 22:49, si accende un blues allucinante, gente. LB ha preso la sua ascia da guerra e ha cominciato a battere sul manico. Volevamo salutare e ringraziare soprattutto gli amici del Royal Café di Sersale che ci ascoltano, magari diffondere il verbo, ogni locale il lunedì sera che ascoltasse Clandestino Cid, ogni locale, ogni autobus, ogni bettola, tutto. Ogni bettola, ogni casa, ogni cesso, ogni qualsiasi cosa, ragazzi, ogni palestra, ogni auditorium, ogni auto, anche chi fa magari ora sesso in macchina potrebbe ascoltare Clandestino Cid. Questa vuoi che ti passi il gelatone per dirla? No, a proposito di sesso e non sesso, perché alla fine quest'estate sono stato a Praia a Mare e si ascolta bellissima musica. Alla fine, scaricando il podcast, sto avendo comunque una connessione wifi decente, si potrebbe ascoltare pure Clandestino Cid al mare, perché alla fine si fa sesso in acqua davanti a tutti, ma si viene querelati, ti prendono pure ammazzate per fare sesso in acqua, non sulla spiaggia in acqua. E questo accade a San Paolo del Brasile, Sex on the Beach. Praticamente niente, c'è proprio un filmato in rete che parla di ritrae questa coppia che ce la mette tutta, sì, guardone infatti, però no, era simpatico. Il fatto è, non tanto per essere un guardone, però il fatto di essere accusati di otte scene in luogo pubblico, ragazzi, fate l'amore, non fate la guerra. Cioè, allora mi devo andare a vedere su tutti i media la faccia di un nano di merda che ci rompe i coglioni dal 94, e invece di andare sulla spiaggia e vedere due persone che fanno l'amore, la cosa più naturale del mondo. Ragazzi, toglietevi ste band, uscite fuori, dialogate, fate l'amore. Infatti direi che la cosa più bella di questa notizia, che è successa nella spiaggia di Rios das Ostras sulla costa atlantica del Brasile, è che praticamente, anche se qualcuno ha tentato di fermare l'esibizione hard, chiedendo di chiamare la polizia, alla fine praticamente i due amanti che hanno fatto questa performance hanno ricevuto anche un lungo e travolgente applauso da molti bagnanti che avevano assistito alla scena. Sporcaccioni anche loro, devo dire la verità, perché secondo me anche loro avrebbero fatto sesso più di loro, i bagnanti. O qualcuno si masturbava da solo, magari dietro una roccia, dietro un polipo, dietro un pinguino, non lo so. In Brasile non ci sono i pinguini, però magari si masturbano in Brasile. Prego. Peppe lo sa perché c'è stato in Brasile, quindi può darci conferma di questo. Certo che ci sono stati in Brasile, chi non è mai stato? Lorenzo, puoi abbassare il blues per favore, che se no non riesco a parlare. Allora, in Brasile no, non ci sono mai stato, Cici, purtroppo, ma si potrebbe andare, boh, non lo so. Andiamo a vedere le spiagge, il Brasile è una bella nazione, grande, la foresta dell'Amazzonia, tutte quelle cose là, il Rio delle Amazzoni, Rio de Janeiro, Copacabana. Sì, ma resta il fatto, Pep, faresti sesso in acqua davanti a tantissime persone? A Copacabana? No, a Pietragrande. A Pietragrande? Ma non lo so, sì, può essere. Che se ne frega, va bene, dico, non è un problema. Vive il sesso libero, come diceva Rino Gaetano. Quindi fissiamo una data per agosto, andare a vedere tutti al mare a Peppe che fa sesso nell'acqua. A Pietra Grande, ricordiamo l'appuntamento, non so per quando, 16 agosto, Peppe? Il 16 agosto va bene, sì, va pure il 15. Un attimo, controllo l'agenda. Va bene il 15, dai. Il 16, anzi. Quindi quest'anno tutti dopo il Ferragosto andiamo a vederci lo spettacolo di Peppe, 16 agosto, sesso libero a Pietra Grande. Ma sulla pietra o nel mare, se posso chiedere, giusto per una questione tecnico-tattica, se posso... Se deve essere nell'acqua è nel mare, sulla pietra non è nel mare. perché non vorrei che la pietra pizzuta sarebbe spigolosa, giusto per capire, ovviamente potrebbe far male, France, non so se allora addirittura ci fanno un suggerimento addirittura da Rufus Van Delft, che non so chi è, a pietra fitta, anzi pietra ficca, ecco, è giusto ecco, scopare, ovvero pulire per terra, giusto per questo. Passo la palla a Francesco, prego. La ricevo, la stop di petto. Comunque, passiamo adesso alla nostra rubrica settimanale. È già la terza occasione che c'è con la nostra intervista all'artista. Giusto, Pep? Certo, possiamo partire con... con la telefonata, andiamo con il nostro artista. Cosa c'è, Lorenzo? La sigla? C'è la sigla, forse? Hai preparato la sigla? Vai! Siamo con l'intervista all'artista. E questa sera andiamo a intervistare Renoir. Buonasera, Renoir. Buonasera. Renoir è il tuo nome d'arte. Sì, sì, esattamente. Il mio nome è Marzio Lia e Renoir è il mio nome d'arte. Marzio Lia, quando inizi e perché ti avvicini alla musica? Ma il perché è difficile da dire, ma ho iniziato a suonare da piccolissimo, avevo 14 anni. Ho iniziato prima suonando la batteria, dopodiché ho cominciato a cantare con le prime band locali, diversi generi. La più grande esperienza sicuramente è stata con i Nemesis, la band melodic metal. Dopodiché ho deciso anche di dedicarmi alla carriera da solista, facendo due EP, più che altro pop rock. E adesso ho, diciamo, intrapreso questo nuovo progetto che si chiama Renoir. Quindi diciamo che i passati EP sono, non sono registrati con il nome Renoir, ma Marzio Lia. Sì, esattamente, perché comunque ho voluto dare questo distacco perché... E si discostano entrambi come, diciamo, come generi, cioè quelli sono orientati più verso il pop rock, Renoir è più verso il rock alternative, quindi ho deciso comunque di distaccare le due cose. Quindi sostanzialmente abbracci più generi musicali. Sì, in realtà sì, e non mi do dei vincoli prestabiliti su quello che, diciamo, sul genere, diciamo che mi lascio guidare più che altro dalle emozioni, da quello che comunque mi trasmette in quel momento la musica. E emozioni, bellissima questa. Quindi diciamo che sto parlando con uno che si è formato in modo autodidattico. Sì, certamente, sì, completamente autodidattico, sia come batterista che come cantante. Non ho mai preso lezioni. Benissimo. Ci vuoi parlare del tuo nuovo progetto, Renoir? Sì, in realtà diciamo che io da sempre continuo sempre a scrivere nuovi inediti. Ho deciso di intraprendere questo progetto perché forse è quello che mi rappresenta di più, perché le mie radici come cantante sono principalmente nel rock e prima ancora nel blues. E con questo singolo Veleno comunque ho cercato di mantenere le mie radici e comunque di rendendole in maniera... diciamo attuale anche a livello di sound, ecco. Posso chiederti il perché del nome Renoir? Ma Renoir non è un'idea, diciamo, completamente mia, perché mi è stata consigliata dal cantautore Mano Libera. Mi piaceva e comunque ho deciso di utilizzarlo, anche se c'è anche, diciamo, un significato, c'è un nome più che altro di protesta. Si rifà alla parola Renoir, re nero, quindi... il nero sicuramente perché per quanto riguarda le tematiche che vado a toccare, che sono piuttosto tetre, dark, ecco. Quindi sostanzialmente, come dicevamo prima, anche il Renoir noi non possiamo catalogarlo in una precisa locazione a livello di sound, a livello di genere, ma tocchiamo un progressive, possiamo dire. No, il progressive più che altro no, più che altro il genere è sempre rock. Io lo definirei dark rock, ecco, perché comunque è un misto tra il rock e l'alternative, quelle sonorità comunque anche i synth, tutta questa roba qua, anche perché sto lavorando a nuovi inediti che vanno verso questa direzione qua, diciamo. Quindi tra ispirazione comunque da qualcuno, da qualche sì, preso ispirazione anche dai suoni attuali, ecco, cioè mi sono formato dal classic rock, però cerco comunque di essere, mi piace essere contaminato da diversi generi, quindi sostanzialmente nella scena attuale cosa ti colpisce? Una scena attuale comunque che va sempre più alla deriva, dati la musica che ormai non si ispira quasi più a nulla, non lo so, dettata anche dalle esigenze dei bimbi minchia, possiamo dirla tutta, e dai talk show. Per questo nasce anche interviste all'artista, diamo spazio agli artisti che comunque, come dicevi tu prima, si formano in modo autonomo e hanno voglia comunque di dialogare con il proprio pubblico. Tu il tuo nuovo brano, il tuo nuovo progetto è disponibile a tutti, diciamo, in rete? Sì, certo, è in rete, in streaming. Ho deciso di utilizzare come metodo di diffusione principalmente YouTube, ma anche su MySpace. Non dispongo di un account Facebook proprio come scelta personale, ma preferisco più che altro YouTube come metodo di diffusione, anche se c'è da dire che preferisco comunque distribuire la mia musica tramite supporto fisico, che comunque per una questione di qualità audio più che altro, sì. Quindi è registrato, diciamo, è registrato su un CD? Sì, in realtà sì, però poi per questioni di diffusione in rete c'è bisogno comunque di convertirlo, insomma, in file compressi, quindi la qualità audio va un po' a calare, diciamo. Capisco. Abbiamo detto che sulla scena attuale comunque ti lasci contaminare, e in particolare, non lo so, ti senti di citare qualcuno? Ma sicuramente in questi ultimi anni mi sono orientato più che altro verso la scena indie rock, in particolare su quella italiana. E, sicuramente in quest'ultimo periodo sono molto influenzato da una band diciamo giovane che ha partecipato anche a Sanremo, che sono i Blastema. Diciamo che in Veleno forse c'è anche qualche ispirazione, ma penso sia normale comunque una cosa del genere. Io in una tua breve biografia leggevo: Renoir, l'unico re che non ha potere e del volere dei propri sudditi ne fa la sua corona. Interessantissimo questo. Comunque è una frase, è un po', cioè, come il nome, che comunque il nome è un nome di protesta, per far capire che comunque il nome Renoir è per un fatto che io cerco di, attraverso le mie liriche, di portare avanti un messaggio che penso sia anche il messaggio, diciamo, del popolo, nel senso che comunque la canzone Veleno è una canzone molto, molto di protesta, in particolare contro il sistema. Comunque rispecchia un po' la situazione politica attuale, non vorrei stare qui vista le elezioni, però diciamo, per far capire un pochettino questa frase qui. Tu quindi diciamo, come vedi la contaminazione politica all'interno della musica, e la musica come cresce? No, ma guarda, io secondo me, se posso interromperti, io non vedo la politica nella musica, non lo so, secondo me sono due campi, cioè, diversi, però come dire, cioè, non so come spiegartelo, ma secondo me la politica dovrebbe stare un po' alla larga dalla musica, poi nei limiti consentiti. Beh, certo, naturalmente. Però comunque troviamo tantissimo, anche tu stesso parlavi di Veleno, che comunque ha delle sfaccettature politiche. Sì, più che altro sì, sulla realtà, più che altro sul sociale, così. Questo sì, è vero, questo sì, un po' sì. Ti va di descrivere un po' il brano? Ma in realtà non, guarda, non amo, diciamo, spiegare il senso delle mie canzoni, perché voglio che sia l'ascoltatore a decifrarne il messaggio. Diciamo che in linea generale è quello che comunque ho detto prima, comunque è una critica comunque al sistema, all'ipocrisia della classe, diciamo, della alta, della noblesse, quindi diciamo veleno, diciamo è un messaggio che viene, diciamo, dal popolo, ecco. Capisco. Quindi hai intenzione proprio di, cioè, hai delle serate in piano per comunque ti esponi nel pubblico normalmente? Io sto cercando di formare, diciamo, una nuova band. Siamo comunque agli inizi, stiamo cercando di organizzare un po' tutte le idee. Spero proprio di suonare dal vivo, perché è quello che mi manca, diciamo, in questi ultimi anni, perché si suona poco, dovuto comunque a questo ambiente che non vorrei, diciamo, dilungarmi più di tanto, perché si suona poco. La musica dal vivo nei locali, in particolare qui in Calabria, è quasi nulla, quindi purtroppo bisogna lottare anche nella musica, è così. Ma questo è un parere che comunque è sentito da tantissimi altri ragazzi che comunque come te, come tanti altri, cercano di anche dialogare con lo stesso pubblico, però trovano questa barriera, quasi la ricostruzione di nuovo della terza barriera, no? Perché? Cioè, ti sei fatto una domanda del perché? Io più che altro penso che vengono dati in mano, diciamo, la direzione di festival, diciamo, tutte queste attività musicali sono in mano, mi dispiace dirlo, a persone sbagliate, ma sbagliate nel senso che comunque tendono comunque ad organizzare questi contest che comunque sono fini a se stesse, nel senso, più che altro per racimolare, diciamo, dei soldini. Loro lo fanno, diciamo, per racimolare dei soldini. Però per quanto riguarda l'artista, non, diciamo, non, l'artista muore là, ecco. Non ti danno, diciamo, modo di comunque. Innanzitutto vieni giudicato da persone che non del tutto competenti. Questo mi dispiace, cioè, mi dispiace, ma non devo dirlo, è così. Prego, sei liberissimo di dire quello che sì, questo, diciamo, è anche uno sfogo, perché chi ha condiviso con me la musica sa che quello che dico comunque è a nome di tutti. Quindi, diciamo, adesso l'unico modo per suonare, ecco, è suonare in questi contest che sono fini a se stesso. È una cosa che ci tenevo a dirla veramente di cuore, è il fatto degli inediti. Purtroppo qui non gli si viene dato il valore giusto. Allora, se sei una cover band, suoni ovunque, comunque hai modo di esporti al pubblico. Se cominci a fare inediti, c'è questo senso di discriminazione. Comunque ancora questa cosa non l'ho capito, sinceramente la vorrei capire, ma questo comunque è un pubblico chiuso, non lo so, ma sì, non lo so se il pubblico o se principalmente sono anche, brutto da dire, i gestori, diciamo, di alcuni locali che tendono comunque a dire: se tu fai cover sono sicuro che mi porti tanta gente, quindi io guadagno, se mi fai l'inedito insomma tu chi sei, magari cercano anche in qualche modo di indirizzarti verso, diciamo, le cover piuttosto che sugli inediti. Questo per un, diciamo, un artista emergente che cerca di creare qualcosa di nuovo è un'umiliazione. Alcune volte in prima persona ho avuto, diciamo, questa cosa qui, questo sentimento qui, mi sono sentito umiliato, perché non capisco il perché, perché comunque già al nord non funziona così. Quindi diciamo tutto... suonare è tutto, si racchiude tutto nel profitto, quindi come dicevi tu, perde tanto l'artista che vuole appunto emergere, fuoriuscire dai canoni prestabiliti, perché alla fine ci stanno dettando soltanto dei canoni da seguire, delle linee guida, ma non sono linee, ma sono costruite dentro delle barriere. Più che altro una sorta di dittatura. Dittatura. Attenzione. Eh beh, va bene, sono delle tue considerazioni, le accettiamo. Sono tutte discutibili. Renoir, noi ti ringraziamo proprio di cuore, ti facciamo un augurio grande, noi di Clandestino, per il tuo progetto che vada per la meglio, anzi poterti magari un giorno anche vedere e ascoltare dal vivo. No, grazie a voi per avermi concesso questa intervista, quindi comunque in qualche modo cercate di mandare avanti anche la musica inedita, io ve ne ringrazio veramente di cuore. E il prossimo singolo è di Renoir, Veleno. Istituzioni cadono, libere subito, guidate da profeti egemoni, languidi sorrisi bramano la nostra libertà, per sfamar le voglie di chi pudore più non ha. Chiudo gli occhi e penso che il mio futuro è incerto, che mai dipingerà il respiro di un infante che la luce mai vedrà. Eclettici, candide parole si innalzano leggere su di noi e confondono la mente di chi dignità più non ha. Con le tasche vuote il mio respiro stanco che mai riuscirò ferite di un passato che frutti mai. Aspetta, ascolta, la mia forza avvelenerà, i tuoi occhi, i tuoi capricci, la tua falsità. La sete di veleno dentro me spegne la speranza che c'è in te. Brucia la sete di veleno dentro me spegne la speranza che c'è in te. Ringraziamo nuovamente Renoir e il pezzo era Veleno. Bella dire la verità, davvero. Cioè, sono contento di aver ascoltato questo pezzo, mi ha fatto davvero piacere. Complimenti Renoir. Speriamo sia un pensiero comune. Alla fine, vabbè, lo ricordiamo, è possibile ascoltarlo su YouTube, su Twitter, MySpace di Renoir. Noi ritorniamo in aula, Pep. Torniamo in aula, comunque ritorniamo con delle news sul campo del... dell'amore, perché cari ascoltatori, e qui ringraziamo e salutiamo il nostro amico Benedetto XVI Joseph Ratzinger, l'amico di Peppe, è un saluto veramente sentito all'uomo che ha fatto, diciamo, mi viene da piangere parlando di lui, di Joseph. Lorenzo, il blues sempre un po' più basso, per favore. Eh sì che si sente il blues. Stiamo parlando, un momento catartico, stiamo parlando di Joseph, un mio caro amico che purtroppo non può, Peppino, sì, purtroppo non potrà più continuare la sua carriera stroncata da un infortunio. Purtroppo in allenamento un compagno di squadra gli è entrato in scivolata da dietro e ha avuto un problema tibia e perone, quindi la sua carriera purtroppo è finita. Non potrà più giocare, non potrà più scendere in campo, però noi siamo vicini a lui. Siamo vicini perché secondo me ce la può fare. Ripensaci, non ti ritirare dalla carriera agonistica, per favore, Joseph. Continua a fare il papa, ti vogliamo bene. Wow, Peppe, si vede che è proprio sincero il tuo sentimento, alla fine. No, il fatto, sì, rientra in pieno nelle cosiddette vaticanate, che a noi piacciono tantissimo. Non so se ricordate tempo fa la campagna contro il preservativo che fu avviata all'epoca. Viva la sagra del Würstel. Quella purtroppo c'è sempre, anche se noi amiamo le patate. Comunque no. Domani che ne mangiamo? Patate più pazze. Buonima domani. Comunque, arriva la rivoluzione nel campo dei preservativi, perché, carissime, c'era sempre il problema, Marco, magari pure con una ragazza, il silicone, sono allergico al lattice, adesso invece arriva il preservativo in silicone. Un team di ricercatori americani ha brevettato nuovi condom in silicone che permettono di aumentare la sicurezza in primis, quindi Arocolo, Vatica. È il piacere anche in primo posto, diciamo. Alla fine sì, sono superati ormai i preservativi in lattice, la nuova frontiera è il silicone. Guarda, addirittura io penso che nel 2022, se tutto va bene, fanno i preservativi in gesso, che saranno ancora più sicuri. Però vabbè, il silicone oltre... allora, si sa benissimo che si usa per isolare, diciamo, finestre o eventualmente porte. Io vedo se aumenta il piacere addirittura e la sicurezza. 6-2-6 direi, cioè una persona può fare l'amore all'amore eventualmente, come si suol dire, anche sul soffitto, ed eventualmente è sicura di non trovarsi fra, diciamo, dopo 9 mesi in ospedale. Sì, sostanzialmente con il nuovo condom in silicone potrai dar vita alle tue più sfrenate voglie sessuali, non lo so, andare a fare all'amore, come dicevi tu prima, in un rogo di spina, non lo so, in un bosco di rose. Oppure eventualmente su una padella, col culo sulla padella, piena di patate e piperazzi. Come mi suggerisce per domani, patate e piperazzi? Sì, certo, mi arriva da dietro le quinte. Comunque ci sono molte novità. Io piuttosto... direi che oltre il preservativo al silicone possiamo eventualmente parlare di un'altra notizia, la moda del cucinare nudi. Allora, praticamente d'ora in poi non si fa più, diciamo, il topless magari sulla spiaggia, ma in cucina, quando fra le mura di casa si può fare tranquillamente il topless. Ormai la rete è invasa da questi siti e blog che occupano di cucina, praticamente una cucina un po' strana, se possiamo dire. Che succede? Nel giugno del 2011 è nato praticamente Naked Vegan Cooking, ovvero l'idea praticamente è venuta a tre coinquilini di Manchester che si chiamano Jess, anzi tre coinquilini o coinquiline, io ora non... Però sta Greta, allora io non vorrei che una cosa a tre, perché c'è Jess, Greta e Luke. Ora Greta è femminile sicuro, Luke è maschile, Jess non so se è maschile o femminile. Forse il gesto che ti riferivi. È il gesto di prima, sicuramente, che hanno deciso di postare sul web le loro ricette praticamente con una particolarità. Si fanno fotografare coi piatti in mano e completamente nudi. Allora, Peppo, io ti passo la palla al volo. La cucina nudi, io di solito cucino nudo perché mi piace, no, no, scherzo, c'è sempre la questione, quella questione là, Lorenzo abbassa il blues. No, come si diceva prima, io ho la sagra del wurstel, no, cucinare nudi, cucinare wurstel, salsicce, cose che piacciono più, non le patate, per esempio. Cucinare nudi ci sono dei problemi, che se mai stai davvero facendo salsicce o wurstel potresti confonderti, e quindi diciamo che non è... Diciamo che è meglio proteggersi in questi casi, quando indossando per esempio un apposito cosa di silicone, per esempio, usare il silicone per difendersi da queste cose, così non ti confondi. Oh no, Ciccio. Vabbè, il fatto naturalmente per i super dotati come te, Pep, potrebbe essere naturalmente un problema, però niente, rassicuriamo i nostri ascoltatori perché la cucina nuda nasce da un'idea vegana, quindi alla fine, Pep, al massimo una zucchina o un cetriolo. Una banana, se proprio dobbiamo siamo ridotti proprio alla frutta a questo punto, devo dire la verità. Comunque i tre ragazzi ci tengono a sottolineare che in realtà non c'entra niente il sesso, cioè l'obiettivo di questa cucina è cogliere l'occasione per parlare di tematiche sociali, praticamente a partire dall'importanza di un'immagine positiva del proprio corpo, senza usare Photoshops. Cioè praticamente uno cucina nudo per sentirsi meglio, a quanto ho capito. Cioè magari si vede la zucchina, fa un paragone tra la zucchina e eventualmente la propria zucchina, o non so, tra le proprie pere e le mele altrui, o non so. Secondo me è una questione più di confronti nel momento in cui si cucina, no? E magari invece di farlo nel letto, sti confronti, uno si piglia male, no? Mentre cucina uno è più allegro, forse. Marco, bisogna soltanto provare per credere a questo punto. Direi che, ragazzi, la pratica rompe la grammatica. Ma io non sapevo che non era proprio rompe, o sbaglio? Non so se... Ah, addirittura mi fanno un gesto, allora, da dietro le quinte. Allora, la pratica... Diciamo di... violare sessualmente molto, con molta potenza. La grammatica? Puttere, eh? Puttere la grammatica, la pratica puttere la grammatica. Ah, infatti, fottere, ma nel senso proprio di fottere oppure... Ok, Pep, sono dell'idea di essere liberi. Questo è un pezzo che sta per iniziare. Subsonica e Silvestri, liberi tutti. Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo come Steve McQueen o come il grande Clint in fuga dai Catraz. We'll be right back. tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi. Ritorniamo qui, Clandestino Cid, fuori onda radio ogni lunedì. E niente, Marco ci è rimasto male per la questione della salsiccia e del cetriolo, ma più che altro il fatto della grammatica che purtroppo fotte la... No, la pratica, fotte la grammatica, no, la grammatica. Allora... E appunto salutiamo pure Lupino che ci scrive quanto era bella quella maglietta Liberi Tutti del post G8, dove cazzo si è finita. Beh, Marco, tu domani devi lavorare. Allora, purtroppo sì, devo lasciare questi tre giovani baldi che questa sera mi hanno fatto divertire, devo dire la verità. Un ringraziamento particolare a Francesco Peppone e... attenzione, si è sgamato un qualcosa in questo momento. Lorenzo Blues. Allora, quindi Lorenzo Blues. Ditemi, dite. Allora, ricomincio, vai. Allora, un ringraziamento particolare va a Lorenzo Blues, Peppone e Ciccio per Mister Destiny, che ha una faccia però praticamente vorrei ringraziare tutti quanti e ricordare che il 27 siamo tutti alla Stube Paulaner per il gruppo Key Blues alle ore 22 dovrebbero essere, se non sbaglio. Ottima birra, devo dire la verità. Io, allora Ciccio, direi tra la St. Thomas e la Salvador. No, Salvador mi sembra una cosa molto... Salvador o St. Thomas? Nessuna delle due, io preferisco la Vice. La Vice sarebbe? Strong Beer Saison Munich. Vabbè, comunque... Salvator, va bene. Comunque io domani purtroppo devo andare a lavorare, quindi lascio questi giovani baldi che mi hanno ospitato questa sera per una buona ora. E niente, Ciccio, dimmi tutto. Buona serata. Buona serata, allora, vorrei un ringraziamento particolare, 27, allora tutti alla Paulaner, va bene? Io passo la palla a Peppe e vi do la buonanotte, ciao! Volevo ricordare che Salvatore era un uomo morto da uomo, con un fucile in mano, come dicevano i nomadi. Ora andiamo con il prossimo pezzo, un pezzo che dedichiamo ad Antonietta, che è Fitz Pleasure, che... scelto lei, quindi glielo dedichiamo. Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra. In your night feels pleasure, boom she pleasure. the next. Ringraziamo Antonietta per il pezzo, una delle nostre ascoltatrici più di fiducia, diciamo. Sì, di fiducia. Niente, andiamo un po' sulla scena musicale questa volta, perché alla fine va detto pure qualcosa. Lasciamo stare la scena sessuale per un attimo, no? Per un pochino. Un attimino. Andiamo dai nostri carissimi Led Zeppelin. Blues, direbbe qualcuno. Allora, Robert Plant torna a scaldare gli animi dei fan con le ultime dichiarazioni che mettono sul quadro una possibile reunion delle Zeppelin. Plant ha dichiarato di non essere l'unico responsabile per la mancanza di un'attività della band dopo l'ormai celebre concerto di Londra nel 2007. Il cantante ha detto: gli altri due ragazzi, John e Paige, ragazzoni, sono ragazzi una volta Key Blues, sono del segno del Capricorno, non parlano molto, sono molto riservati in quello che dicono e lasciano la palla a me, ma non sono io il cattivo ragazzo, cattivi guaglioni. Ha aggiunto inoltre una frase più cripta: dovete vedere Capricorni, io non ho niente da fare nel 2014. Chissà che si riferiva a sti Capricorni. Insomma, lui. Comunque, niente, noi aspettiamo le Zeppelin, magari qui un concerto. Sì. Alla Povaner, no. Notizia dell'ultima ora, la prossima settimana l'artista, non volevo dirlo, però ci ha citato questo gruppetto qui poco famoso, saranno questi Led Zeppelin. Io non li conosco, però settimana prossima verranno qui a Fuori Under Radio, quindi se qualcuno li vuole conoscere, si colleghi lì e li ascolterà. Bravissimo, Peppe, bravissimo. Poi passiamo alla prossima, che era invece riguardava un gruppo italiano. Il gruppo sono Lele e le Storie Tese, e in particolare ci interessa la figura del bassista Nicola Riccardo Fasani, detto Faso. Una piccola curiosità su di lui, per renderci conto comunque dove si vive in Italia, naturalmente, e come lo Stato ha la facoltà di giudicare il bene dal male. Niente, nel 2002 Faso ricevette una sospensione per doping di 8 mesi dall'attività agonistica per essere stato sorpreso a fumare uno spinello prima di una partita. In quel periodo, durante i suoi commenti delle partite di baseball trasmesse da Tele Bip, più volte ribadì il suo disgusto per il mondo del calcio, dove invece i giocatori sorpresi a utilizzare sostanze dopanti ben più pericolose ed efficaci della cannabis, che paradossalmente ha un effetto rilassante e non eccitante, hanno ricevuto sospensioni di minore durata, ulteriormente ridotte e per di più scontate durante le pause estive. Quindi un complimento pure a tutti coloro che ancora continuano a seguire il calcio, e noi invece, tipo Peppone, che la domenica è all'italiana proprio sul... sì, vabbè, Peppone sembra su cazzo di pallone, poi mamma mia, oh, non si può nemmeno parlare. Però alla fine ci sono tanti altri spot stupendi. L'altra volta con il mio amico LB siamo andati a vedere la squadra del CUS di rugby. Tu pure c'eri, però. Per sbaglio, però... L'altra volta, non l'altra volta. Comunque, Peppe, aspetta un attimo. Smontiamo un mito, per quello del calcio, basta con il pallone. Ti voglio, la prossima volta, la prossima partita che mi commenterai sarà quella di baseball. Lasciamo perdere questo fatto che io il pallone comunque lo seguo più o meno, seguo la Juve ogni tanto, ma non è vero che dalla mattina alla sera seguo il pallone. E poi l'altra volta la partita di rugby ti ci ho portato io, che tu non volevi nemmeno venire, perché il blues non voleva venire. Comunque, lasciamo stare. Il rugby a me è uno sport che piace tantissimo, infatti lo praticavo io quando ero piccolo. Davvero, ci ho giocato qualche volta alla villetta del mio paese, ci andavamo. Comunque è uno sport che seguo, a differenza tua, che segui soltanto le droghe, drogato. Se per droga intendi le belle ragazze, sì, sono un drogato. Se per droga intendi la musica, sì, mi strafaccio ogni giorno, Pep. Comunque, è un blues allucinante questa sera. Niente, abbiamo un pezzo di Elio Stieretese e ve lo facciamo ascoltare. Leggo la targhetta sopra l'ascensore, qual è la capienza, quanti chili porta, poi si apre la porta e non lo so già più. Sono abitudinario e se mi soffio il naso devo controllare quello che ho prodotto, quanti chili pesa e se c'è del pericolo per l'ascensore. Seduto nella vasca e metto certe bolle che salendo a galla corrono sulla schiena fandomi felice, giunta in superficie non mi piacciono più. Sono abitudinario, non mi giudicate, siete come me. E adesso un lieto ritornello che non c'entra un cazzo ma che piace ai giovani. Ditemi perché, se la mucca fa muri in merlo non fa me. La nostra vita è una charada, sulle prime sembra che sì, e invece che sì, che sì. Ditemi perché. C'è un dirigibile marrone senza elica e timone dentro me. Quando c'ho la ragazza faccio la conchetta per sentirmi il fiato. Sto 20 anni in bagno, penso che si chiava, dopo non si chiava e non mi lavo più. Cerco nelle mie narici una testimonianza delle mie radici, ma vi trovo un fico, lo dovrò spalmare sotto qualche banco come in gioventù. Questi sono i miei costumi, vendo paralumi, siete come me. E allora un altro ritornello che non c'entra un gatto ma che piace ai giovani. Ditemi perché, se la Passi, passi, Elio e le Stonie Attese che vi presentano il nuovo brano sempre qui dalle stazioni di Radio Super Sound. Ditemi perché. C'è un dirigibile marrone senza eliga e timone dentro me. Non ho più strumento, lieto mi addormento, ebro dei miei gas. Pomeriggio d'aprile era ormai terminato quando Giorgio e Piero si risvegliarono imprigionati nelle segrete. Per farsi coraggio si inserirono vicendevolmente il pene nell'ano, quando ad un tratto videro un piccolo soldo di cacio avvicinarsi. Era il nano Gurt che, sbuffando dalle enormi froge, li liberò. Per sdebitarsi i due gli donarono un tozzo di pane ed un piccolo crogiuolo. «Potrai forgiarvi ciò che vuoi», gli dissero. Una festosa salva di peti salutò la loro partenza. «Ma dove andrete?» gli gridò Gurt. «Andremo alla ricerca del pene d'ebano». Sto 20 anni in bagno, penso che si chiava, dopo non si chiava e non mi lavo più. Grandioso Elio. Grandioso, grandioso Elio. Allora, a proposito di bagno e non bagno, Peppe, abbiamo una news dal campo del bagno. No, del bagno, vabbè, c'è chi lo fa in bagno, non lo so, tu dove ti depili, Peppe? Io, come potrai ben notare, mi depido ogni giorno in bagno, cioè la barba non la lascio crescere più di 2 giorni perché mi dà fastidio. Tu? Ma puoi dirlo a tutti che depili pure le parti intime. Sì, sì, uso cosa? Come si chiama? La Gillette. Per l'uomo che non deve chiedere mai. E appunto, questa volta invece ti veniamo incontro noi, Peppe, perché arriva la ceretta naturale ed ecologica. Niente, sono metodi naturali ecologici per eseguire la depilazione. Si chiama Soccar. È una pasta a base di zucchero e limone, che proviene da una tradizione molto antica, ma oggi realizzabile col patatè. Gli ingredienti sono facilissimi, sono reperibili in tutto il globo, perché, oddio, in tutto il globo forse no, perché comunque il limone, trovarlo nei paesi del nord inoltrato è un po' difficile, però comunque si possono ritirare da internet. Abbiamo comunque gli ingredienti sono zucchero di canna o semolato e succo di limone. L'importante è rispettare le proporzioni tra i due ingredienti e, se si vuole, magari al dolcificare il tutto, Peppe, anche un cucchiaino di miele. Va bene, Ciccio, vediamo, casomai me lo prepari e poi lo userò. Ma vuoi che ti pratichi io la depilazione? No, lo faccio da solo, faccio liberamente da solo. Fate liberamente. Che blues. Comunque, Peppe, ritorniamo dai nostri amici di Google Maps. Che sempre loro, sempre i mitici, quelli dell'asino e della fotografia in Francia, vero? Bravissimo, Peppe, ottima memoria. Ma questa volta succede qualcos'altro. Siamo a Mosca. Niente, il ragazzo cercava semplicemente una strada. E guarda che succede, Peppe. Trova la sua fidanzata insieme con un altro che passeggiavano tenamente abbracciati per la strada di Mosca. Il ragazzo dice: all'inizio ho visto una sagoma familiare, poi non riuscivo a capire come mai somigliasse così tanto a mio Sasha. Sì, Google Maps fa proprio miracoli. Dico, che culo, beccarla proprio, diciamo, una città come Mosca, che non è, diciamo, certamente una piccola città. Trovare la propria fidanzata che ti fa le corna, che bello, wow. Ciccio, non lo so. Ma poi come è andato a finire? E niente, Peppe, si sono lasciati perché stavano per sposare, quindi alla fine hanno... è morto tutto lì. Che blues! Che blues! E noi dedichiamo questo pezzo ai due ragazzi di Mosca, un pezzo altamente blues della scuola di dei Jimi Hendrix Experience. Foxy. Tra bestemmie varie, stalking vari, ringraziamo sempre il nostro amato server che qualche giorno arriverà. No, comunque sì, ti passo la palla e ringrazio e saluto i ragazzi del server. Questo è per sottolineare e testimoniare la presenza costante di Mozilla Bros, che con la loro presenza li saluto i due Marco, Ono e Garo, saluto i ragazzi del server, saluto l'altissimo, inimitabile, frappè di Andrea Blues. È stato chiaramente Natale, perché lui, con lui abbiamo ripreso l'eredità a Ciroma qualche tempo fa, e quest'anno purtroppo abbiamo dato forfè. Ma comunque volevo dire che sottolineo la presenza di Mozilla Bros con il fatto che la legge di Murphy ci ha seguito, ossia se qualcosa può andare male. Ah, chiaramente saluto anche Cicillo, che fa parte dei Mozilla Bros, scusa, è il grande Tarlo, che è una tartaruga di mare, insomma, quelle cose là che scherzano Natale da pazzi. Comunque, con la mia presenza ho portato anche la legge di Murphy, che anche come al solito ha fatto andare storto qualcosa. Quindi i Mozilla Bros ci sono, ci saranno sempre, anche quando meno ve l'aspettate, torneranno delle ombre per colpirvi alle spalle con il loro blues affascinante e con il loro pezzaccio. State attenti. Keep blues. Peppe, tu vuoi ringraziare Gis? A chi devo ringraziare? Vabbè, io ringrazio un po' tutti, citando sempre i ragazzi del server, che vanno sempre citati, perché è grazie a loro che tutto questo, la baracca va avanti. Se non ci fossero loro dietro di noi, che ci sostengono. Il server è importante, ragazzi, sosteniamo il server. Un saluto al server, ai ragazzi del server, di nuovo, aspetta, a Valterino, che lui ci sarà sempre, c'è sempre lui che ci ascolta. Rino, ci ascolta. Un saluto pure a Maria, che ci ascolta, a Lupino, che è a Londra, che ricordiamo che la sua trasmissione si è trasferita, come noi, a lunedì, quindi due trasmissioni a lunedì di Fuori Onda Radio, quindi uno dopo l'altro vi facciamo divertire, speriamo, con le nostre due trasmissioni, prima Gran Parete e poi Clandestino Cid. E salutiamo, vabbè, non state più nessuno, che non mi vengono in mente, no, non la salutiamo in questo momento. E salutiamo chi? Ah, salutiamo lei pure. La Madonna, la salutiamo pure. E Ciccio Marinor. Il ragazzo di mare. Salutiamo i ragazzi del mare. Passiamo il microfono a Ciccio. Vai. Ciccio, ma tu hai votato Casa Pound? No, io ho votato... Non ho votato. Sì, Giannini, se non abbiamo votato Giannini, purtroppo niente, 1,1 rimane. No, saluto pure io la Madonna, poi, che è venuta a trovarci l'anno scorso. E adesso è lontana, però niente, noi di Clandestino Gid la lanciamo stasera, perché comunque il progetto da parte mia e di Peppe c'è da tantissimo tempo, e il progetto è quello di costruire una statua a Maria e collocarla alla rotonda di 4 miglia. Sarà una statua di dimensioni non umane, ma sovrumane. Chiediamo anche l'intervento di architetti validi, perché architetti? La statua deve essere più alta del Marconi, perché si deve sottolineare la potenza della santità. Quindi Maria, non so se ci stai ascoltando, tu sei sempre nei nostri pensieri, e niente, se riusciremo comunque con la raccolta fondi, adesso manderemo pure un codice IBAN per i fondi, ti costruiremo questa statua, magari metteremo pure un cartello giallo con una scritta nera, Peppo. Che diceva Dio bocca di rosa quando se ne va la primavera. E quindi, dopo questa citazione, non può che andare in onda una canzone di Manu Chao. Andiamo con Manu Chao, Politic Kills. Politic kills, politic kills, politic kills, politic kills. Politics needs votes. Politics needs your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs, politics use bombs, politics need torpedoes, politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force, politics need cries, politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills. Cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Clandestino C, mezzanotte e sette, sempre su Fuori Onda Radio. Ricordiamo l'appuntamento di... sì, vabbè, mercoledì alle 22, Stubaulaner con via Silvio Pellico 36, rende, commenda. E ricordiamo anche l'appuntamento del giovedì alle ore 18 con Indie Radio. Sempre su Fuori Onda Radio. Io, costretto a mangiare organi di animali crudi dalla reincarnazione di Gesù. La signora Blanca Castro, caro Peppe, che per 10 mesi è stata schiava sessuale della setta messicana Defensores de Cristo, ha raccontato la sua esperienza drammatica: ho dovuto mangiare organi di animali crudi e partecipare ad orgie. Il leader della setta era González de Arriba, che è stato arrestato lo scorso 25 gennaio e lo affermava di essere la reincarnazione di Gesù Cristo e utilizzava il web per reclutare i nuovi adepti. La setta era presente in oltre 80 paesi, circa 4.000 le persone coinvolte in Messico, 10.000 in tutto il mondo. Ogni persona era costretta a pagare tra i 1.300 e i 130.000 euro. 1.300-130.000 euro per la setta dei Defensori di Cristo. Peppe, tu ci sei rimasto male. Ma questa setta andava in onda sulla 7? No, Peppe. Chiedo scusa ai conquilini di Peppe se lo state ascoltando. Non mollate, non mollate. Perché, scusa, ma non potevano andare in onda sulla 7? Una trasmissione dedicata sul digitale terrestre che c'ha 1500 canali, quindi uno dedicato a una 7 ci stava. La 7 del Messico. O l'ottava del Messico, forse. Sì. Messico lontano. Video 8. Video Calabria. Va bene, io vorrei presentarvi un pezzo che è dei Folletti Gelosi, una band che alla ribalta degli anni 80, possiamo categorizzarli catalogarli nel genere folk. Questo è Siamo Nuvole dell'album Bastardo Romantico. Porto via, lasso in alto è tutto chiaro, non c'è più la malinconia, lasso in alto è tutto ok, e le nuvole vanno via. Siamo nuvole, ma che cosa succederà? Siamo nuvole, siamo sole. Siamo nuvole, non restiamo mai da sole. Siamo in chiusura Clandestino Cid vi dà appuntamento alla prossima puntata, che si terrà la decima. Questa volta festeggiamo un mini compleanno per la decima puntata. Ma anche no. Ecco, sempre il saluto disfattista. E come no, ho fatto la torta io. Dai, faccio una torta per la decima puntata di Clandestino Cid. Quella con le stelle? Lo sa. Che blues. Comunque, saluto tutti ragazzi, un abbraccio collettivo a tutti i nostri ascoltatori. Saluto pure Italo che è appena arrivato, un abbraccio. e niente, chiudiamo con un gran blues. Eh sì, questo è un gran pezzaccio, proprio classico dei Mozilla Bros, proprio l'impronta definitiva della presenza di Mozilla Bros in questa trasmissione di Clandestino, che voglio dedicare al chitarrista della band Key Blues, Rufus Van Delft, che probabilmente questo sarà è un piccolo assaggio di quello che sarà la serata del 27, per cui ascoltatelo se vi piace, non potete mancare. Salutiamo gli ascoltatori, buonanotte, ci sentiamo lunedì prossimo. Dolci sogni.